Salve a tutti, io sono Jasmine, questo è Radio Big World e benvenuta a una nuova puntata di Curiosità Animate, dove vi parlo dei classici Disney. Oggi parleremo del 18° classico Disney, ovvero La Spada nella Roccia, distribuito nel 1963. Il film è ispirato all'omonimo romanzo di White, che a sua volta riprende i personaggi del ciclo della Tavola Rotonda. Il film è ambientato nella Londra del Medioevo, che è caduta in un periodo buio poiché il suo regnante è morto e non ha lasciato nessun successore di diritto. Infatti il successore può essere eletto solamente se è in grado di estrarre la famosa spada nella roccia, che però è impossibile da tirare fuori. In questo contesto quindi vediamo il nostro protagonista, che si chiama Artù, però è soprannominato Semola, ed è un ragazzino apprendista scudiero. Semola viene preso sotto l'ala protettiva del mago Merlino, che è un mago potentissimo però allo stesso tempo molto sgangherato, che vede in lui del potenziale. Infatti, verso la fine del film, quando Semola si recherà ad un torneo di cavalieri a Londra, per puro caso riuscirà ad estrarre la spada nella roccia e si rivelerà essere il figlio perduto del precedente re, e quindi verrà proclamato Re Artù. A livello di realizzazione, questo film vede delle animazioni da parte di famosi nomi come Milt Cole, Frank Thomas e Ollie Johnston, che soprattutto animeranno il personaggio di Merlino, che è fondamentale per il film perché è sì un mago potentissimo, però anche la spalla comica insieme al suo gufo anacleto. Il film da una parte riceverà un'ottima accoglienza al botteghino, però dall'altra, soprattutto la critica statunitense, lo accoglierà molto freddamente e anzi verrà molto più apprezzato in Europa. Comunque nel 1964 vincerà l'Oscar per la miglior colonna sonora. Grazie per avermi seguito, io sono Jasmine, questa era Radio Big World e ci vediamo a una prossima puntata di Curiosità Animate.